E questa che avete sentito, come al solito, la nostra sigla, Beach and McKin di Subsonic Voodoo. Questa, come sempre, ogni due mercoledì, Lorda d'Oro. Io sono Strelka. E io sono Belka. Qui con me oggi c'è Belka per una puntata speciale, una puntata che in realtà mi è stata chiesta tante volte, scusate, l'ho procrastinata perché l'argomento non era dei più divertenti e quindi l'ho lasciata andare un po', però questa è finalmente la puntata sull'Holodomor o la carestia sovietica degli anni 30. Forse dovresti spiegare cos'è questa cosa perché non sono sicuro che tutti sappiano. Lo sappiano. Negli anni 30 in Ucraina c'è stata una carestia che viene appunto chiamata Holodomor. Holodomor letteralmente significa morire di fame in ucraino, ed è una carestia che ha colpito appunto l'Ucraina, in realtà ha colpito tanti altri paesi. Quella ucraina è quella che si conosce di più, chiaramente per motivazioni politiche. Recentemente è salita alla ribalta, ha un valore simbolico molto grande all'interno del panorama culturale e politico ucraino, però altri paesi hanno sofferto lo stesso tipo di carestia, compreso il Kazakistan, e quindi oggi parliamo in realtà dell'Holodomor, ma anche della Sharshilik, che è la versione kazaka di questo fenomeno, e lo facciamo in realtà con un'intervista. Un'intervista a un ricercatore kazako, il suo nome è Berik Boldukayev, lui è un scienziato politico, si dice scienziato politico? Uno che studia scienze politiche, è un esperto di rappresentazione della storia all'interno dei libri di testo per le scuole medie superiori, e si è occupato tra le altre cose della rappresentazione proprio della Sharshilik, della carestia, e quindi lo abbiamo intervistato, però non manderemo l'intervista nella puntata di oggi. Cosa faremo? Faremo una traduzione non letterale, una sintesi, perché in realtà l'intervista è anche molto lunga e forse non è il formato più adatto per la radio, però quindi per dare un'idea faremo una sintesi e reinterpretazione drammatica della stessa. Un reenactment in cui facciamo un Freaky Friday in cui tu rappresenterai me. Io farò la voce di Strelka che intervista Berik. Io interpreterò Berik, ok? Quindi calati nella parte, cerca di rappresentare come io avrei fatto le domande poi. L'audio integrale dell'intervista sarà poi messo a disposizione online se qualcuno vuole sentirsi la versione completa in inglese. In inglese, sì. E detto questo, iniziamo. Iniziamo. Allora, per iniziare ti chiederei di darci un po' di background storico su cos'è esattamente questa carestia degli anni 30 che in Kazakistan si chiama Sharshilik, e tieni conto che in Italia se ne sa poco o nulla di questo evento storico, e spiegaci anche un po' che connessione tu vedi tra questo evento in Kazakistan e l'Holodomor ucraino. Perché sono due eventi che sono avvenuti più o meno nello stesso periodo, stiamo parlando degli anni 30 del XX secolo, anche se in Kazakistan è iniziato un paio di anni prima, e quindi dici se secondo te sono due eventi che hanno qualcosa in comune o sono due lati dello stesso fenomeno o se invece sono scollegati ed è soltanto una coincidenza temporale. Sì, l'esistenza di un collegamento tra questi due fenomeni è stata abbastanza accettata, c'è un collegamento appunto tra l'Holodomor e la Sharshilik, una parola che direttamente dal kazako significa carestia. Il contesto storico di questi due fenomeni risiede nel progetto di modernizzazione e di sovietizzazione del paese che viene avviato a partire dagli anni 20 e che però poi entra in moto sviluppato in maniera decisiva negli anni 30, e quindi all'interno di questo contesto storico possiamo considerare come parte dello stesso fenomeno non solamente le carestie che ci sono state in Ucraina e in Kazakistan, però anche quelle che sono avvenute in altre zone, come per esempio la Siberia meridionale e parti poi di quella che diventerà la Mongolia. Quindi questa è la prospettiva, però ci sono una serie di differenze culturali all'interno di come si sono sviluppate le dinamiche di ognuno di questi fenomeni, quindi forse ha senso prima stabilire qual è il contesto generale e poi parlare nello specifico delle differenze culturali. Nel contesto generale, all'inizio del XX secolo, una delle cose che il nuovo potere bolscevico cerca di fare nel territorio è avviare una modernizzazione, un'industrializzazione che deve contare molto sul supporto locale per poter funzionare, quindi c'è tutta una mobilitazione per coinvolgere le popolazioni locali anche attraverso le loro, diciamo, gruppi di intellettuali, l'intelligenza così chiamata. E si cerca di introdurre una serie di riforme economiche, perché all'epoca il livello di sviluppo che queste regioni, soprattutto le regioni più marginali dell'impero zarista, hanno è abbastanza più basso di quello che c'è all'interno, per esempio, degli Stati Uniti e dell'Europa, e viene considerato fondamentale aumentare il livello di industrializzazione per mantenere anche diciamo il governo comunista. Quindi una cosa che però si inserisce subito nel trattamento che viene fatto nelle popolazioni della zona orientale è quella anche di cercare di presentare l'impero zarista come un progetto fondamentalmente di tipo coloniale, che invece l'impero, cioè il governo bolscevico, non dovrebbe essere. La parte più rilevante di questa riforma è la collettivizzazione in un primo momento, una delle, appunto, delle prime riforme che viene passata è quella di cercare di aumentare la quantità di produzione di grano e di altro cibo per poter supportare questo sforzo di industrializzazione, perché richiede una quantità di forza lavoro e quindi anche di riapprovvigionamenti. Nelle zone dove si può coltivare grano, fondamentalmente si inserisce, cioè si cerca di varare questa legge per cui le persone locali possono mantenere una quantità di cibo, una certa quantità di cibo per uso personale, e sopra questa quantità le risorse vanno messe in comune. Questo è diciamo l'obiettivo generale. In Ucraina questo funziona in un certo senso, perché l'Ucraina è un posto dove la popolazione è sedentaria, la coltivazione di grano è sviluppata come industria, però questo non è necessariamente il caso di altre zone del mondo. Quindi per esempio in Kazakistan un problema che si ha specifico locale con questo tipo di presa di incarico di provvedimento è che il governo chiede la consegna di un determinato numero di chili di grano per gruppo collettivizzato, e per esempio nelle zone dove il grano non si coltiva in Kazakistan le persone sono obbligate a fare degli scambi in cui fondamentalmente ottengono il grano per poi darlo allo Stato, ma normalmente loro, cioè la dieta locale si basa molto sulla carne, quindi quello che avrebbero prodotto normalmente è carne. L'attuazione di questo decreto di collettivizzazione viene affidata a personaggi locali, quindi prima di tutto arriva in Kazakistan ad Almaty, che è la capitale dell'epoca nel sud del paese, e poi si ha tutta una ramificazione, una catena di comando che passa dai sindaci dei distretti, poi delle città, fino anche ai rappresentanti all'interno proprio delle fattorie collettivizzate. E quindi secondo alcuni ricercatori quella che si osserva è una vera e propria rete di comando. Questo funziona anche in Ucraina, in cui arrivano appunto dall'alto una serie di richieste che vengono poi diramate sul territorio da persone che tutto sommato vivono sul territorio. La quantità di grano a un certo punto che viene richiesta, di cibo che viene richiesta, è molto più alta di quello che queste zone riescono a produrre, e si inizia il verificarsi della carestia. Ci sono una serie di rivolte contro queste riforme che poi vanno anche a intersecarsi con altre, diciamo, lamentele che sono più di tipo culturale, perché ovviamente nel contesto in cui c'è questo tentativo di collettivizzazione, ci sono però anche una serie di altre riforme, tra cui quella più diciamo protestata all'epoca, è una riforma antireligiosa che va a colpire quindi anche figure religiose che comunque avevano un loro potere all'interno di queste comunità. Quindi sull'onda delle riforme religiose, sull'onda di questa campagna di collettivizzazione, si uniscono questa serie di lotte partono una serie di rivolte che vengono presentate dai sovietici ai loro cittadini come una serie di rivolte che sono basate su motivazioni di classe, quindi che siano le classi alte che stanno fondamentalmente organizzando questa serie di proteste, che però diciamo secondo i ricercatori oggi non è più così vero che ci fosse chiaramente questa distinzione classista. Una delle conseguenze che questa carestia ha, perlomeno nelle zone diciamo di più vicine al confine, non tanto in Ucraina, però è quella di portare una grandissima diaspora. Questo per esempio è vero per il Kazakistan: tantissimi cittadini si spostano e vanno a finire nella zona dello Xinjiang in Cina, oppure in Mongolia, dove di fatto sono, cioè poi si stanziano. E oggi questa è anche una delle grandi questioni con cui il Kazakistan sta facendo i conti, cioè cercare di capire come rientrare in collegamento con la diaspora kazaka all'estero. Allora, la seconda domanda che ti volevo fare riguarda un dibattito su come interpretare questi eventi, e in particolare la differenza di interpretazione che c'è nella comunità scientifica degli storici, accademica degli storici, e in quella che invece potremmo chiamare la comunità politica, cioè il discorso politico come si è sviluppato in questi paesi. Ci sono due interpretazioni e appunto queste due comunità hanno delle valorazioni diverse su quali sono le interpretazioni corrette. Da un lato c'è un'interpretazione che è quella del il piano del genocidio, nel senso che queste carestie non sono accidentali, ma sono state, tra virgolette, provocate da parte dell'Unione Sovietica in modo cosciente, come una politica di repressione e soppressione delle comunità periferiche, tra virgolette. Dall'altra parte invece c'è un'interpretazione che dice che questo è semplicemente l'effetto di diciamo, un'incompetenza nella gestione dello Stato. Cioè abbiamo una nuova classe dirigente che è nata dalla rivoluzione, è un impero enorme, vengono attuate una serie di politiche molto di ampio respiro, grandi cambiamenti, non sapevano del tutto bene quello che stavano facendo, hanno preso delle decisioni sbagliate, però tra virgolette non con l'obiettivo di creare queste carestie sono state una conseguenza non voluta delle loro azioni. E una delle argomentazioni, tra virgolette, una delle critiche più forti all'interpretazione di questo fenomeno come una strategia politica deliberata è che in moltissimi casi queste politiche vengono portate avanti da dirigenti locali che vengono dalle comunità stesse che sono le vittime di questa carestia. Quindi, se è davvero un progetto di genocidio, come è stato possibile per il nuovo governo sovietico coinvolgere i quadri locali in questo tipo di operazione? E anche il fatto che pur avendo colpito appunto le popolazioni kazake o ucraine, in realtà colpisce anche un sacco la popolazione slava, quindi non è del tutto facile vedere esattamente la linea della, tra virgolette, razza in queste scelte politiche, dato che è un po' più confusa, diciamo, la situazione. Sono ovviamente due interpretazioni molto diverse e se può dirci qualcosa a riguardo di come vengono viste nel contesto del Kazakistan. Beh, in Kazakistan, diciamo, la visione di questo avvenimento è cambiata durante il corso della storia, anche perché dipende appunto dai rapporti di forza del momento. Quindi negli anni 40, 50, 60, nei libri di testo, questo avvenimento viene presentato come fondamentalmente il prodotto dell'incompetenza locale, ma si fa di più, cioè si dice che quello che è successo fondamentalmente c'erano un gruppo di leader locali che erano troppo zelanti e sono andati oltre alle linee guida centralizzate che erano arrivate da Mosca. Quindi fondamentalmente la colpa è delle figure locali, e si fanno anche dei nomi all'interno di questi libri, che però sono nomi di persone che non stanno veramente in posizioni di potere, no? Quindi quello che si cerca di fare è dire le persone ai quadri più alti, anche ai quadri più alti locali, cioè anche all'interno per esempio il Partito Comunista dell'intera Repubblica del Kazakistan, non sono considerare come i fautori di questa carestia, ma è stata causata dal fatto che a livello locale c'era troppo supporto, troppo appoggio e un'incapacità di capire a che punto fermarsi nell'implementazione delle linee guida. Poi però, diciamo, verso il finire degli anni Ottanta, all'interno di un generale momento di distensione dei rapporti, tentativi anche di riplasmare questi rapporti politici all'interno dell'Unione Sovietica, viene istituita in Kazakistan una commissione di storici, figure diciamo molto, molto importanti della ricerca storica nel paese, che invece nel 91, con l'indipendenza, emettono la fine, no, di questo loro report, in cui la posizione adesso è che questa carestia è successa perché c'è stata una vera e propria politica genocidia da parte dell'Unione Sovietica, e questa, diciamo, intento genocida viene basato solitamente su due fattori. Il primo è il numero dei morti, perché si stima che comunque in Kazakistan siano morti tra 1 e 1,5 milioni di persone, questo lo aggiungo io adesso: il Kazakistan oggi ha 20 milioni di abitanti, per cui fatevi i conti, quindi 1,5 milioni di persone, e quindi il numero è veramente molto grande. E poi il secondo fattore è la distribuzione della violenza, perché se è vero che comunque questa carestia ha colpito anche persone di altre etnie, è comunque vero che, per come si è sviluppata in Kazakistan, le persone che ha colpito di più sono di cultura nomade e quindi sono i kazaki. Però il Kazakistan non ha veramente, a differenza dell'Ucraina, avuto mai un momento in cui ha, diciamo, unificato e consolidato la propria memoria storica attorno a questo tipo di avvenimento. E per esempio della carestia si è iniziato a parlare in realtà abbastanza recentemente. Il primo monumento dedicato a questo avvenimento storico è stato messo ad Astana nel 2012, la prima statua. Ancora oggi noi non abbiamo in realtà ricerca storica fatta in maniera estensiva, come per esempio invece succede in Ucraina, in generale si è iniziato a parlare appunto di questo argomento molto tardi. E in parte il motivo per cui questo è successo è che in un certo momento, anche dopo l'indipendenza, il Kazakistan ha cercato di fare un'operazione di unificazione nazionale, e questa operazione è stata fatta però anche cercando di incorporare le varie etnie, cioè comunque parlare della carestia in certi termini potrebbe diciamo creare anche una specie di alienazione tra persone di etnia kazaka e le altre etnie. Il Kazakistan è un paese molto multiculturale, e quindi quello che si è fatto è, invece di parlare di questa specifica di questo specifico avvenimento, focalizzarsi su invece la repressione stalinista, perché parlare di repressione stalinista è un argomento che può accomunare gente di tante etnie. Infatti, per esempio, una cosa che si è fatta è che originariamente Nazarbayev aveva deciso di dichiarare il 31 di maggio la giornata in ricordo della repressione politica, delle vittime di repressione politica e della Sharshilik, ma in realtà questa giornata nazionale non è mai stata implementata in questa maniera, e ancora oggi il 31 di maggio è la giornata in ricordo delle vittime di repressione politica, che è una categoria che è molto più facile da gestire perché permette di includere membri di varie etnie, perché appunto comunque ci sono state anche molte persone russe che sono state vittime di queste repressioni, e soprattutto perché il Kazakistan è stato una destinazione di deportazione per tanti gruppi etnici, per cui dal momento che il Kazakistan ha un gulag molto grande al suo interno, sono state mandate lì tante popolazioni, è facile appunto costruire questo senso di unità nazionale attorno a questo sentimento contro alla repressione politica. Senti, riguardo a questa questione del fatto che non c'è stata negli ultimi anni una ricerca sistematica sulla storia di quello che è successo e le esperienze della carestia in Kazakistan, una cosa che volevo chiederti era se pensi che possa avere un ruolo in questa mancanza di storiografia, di ricerca storiografica su questo fenomeno, il fatto che in Kazakistan c'è stata e c'è ancora una forte componente della cultura orale, e che quindi magari tante di queste storie vengono tramandate di forma orale ma non vengono conservate in maniera scritta, e quindi da un lato è più facile perderle, dall'altra parte è più difficile magari per chi fa ricerca avere accesso a questo tipo di cultura, perché ovviamente è meno immediatamente fruibile, no? Perché non è presente in un libro che uno può prendere in prestito e leggere. Sì, sicuramente questo è stato uno dei fattori, ce ne sono anche stati altri, però inizialmente cioè è vero che comunque la tradizione di comunicazione, di passaggio della cultura kazaka è molto di stampo orale, e nonostante ci siano delle campagne di alfabetizzazione, l'alfabetizzazione sia presente nel Novecento, comunque è soltanto verso la fine del Novecento che si passa veramente ad avere uno sviluppo della cultura scritta, e quindi ovviamente alcuni di questi resoconti non sono scritti, vengono tramandati oralmente dai membri della famiglia più anziani a quelli più giovani, e in realtà inizialmente soprattutto la commissione sovietica di storici, quella che appunto abbiamo menzionato alla fine degli anni Ottanta, fa un lavoro di raccolta delle testimonianze sia di alcuni sopravvissuti che dei membri delle loro famiglie, però questi sono anche lavori che non vengono condotti in maniera sistematizzata e non sono particolarmente pubblicizzati oggi, nel senso che comunque anche all'interno del panorama letterario kazako non ci sono, per esempio, racconti, no, pubblicati e disponibili al pubblico generale di questo tipo di avvenimento, o comunque stanno iniziando a uscire solamente adesso, e invece non è per esempio il caso di altri eventi storici successi in epoca sovietica per cui abbiamo testimonianze scritte. E poi appunto ricordavo ci sono altri fattori, uno è banalmente la barriera linguistica, perché parte di queste ricerche iniziali vengono condotte in lingua russa e non in kazako, e quindi raggiungono la parte della popolazione che parla russo, che comunque all'epoca in cui succede questa carestia non è ancora la maggioranza della popolazione, o comunque c'è ancora una larga parte, soprattutto la parte nomadica e soprattutto la parte che viene colpita da questa decisione, che è monolingua kazaka. E poi c'è anche un altro fattore, che è quello della vergogna. Quindi ci sono tutta una serie di, per esempio, risultati di questa carestia che non sono stati proprio investigati totalmente, perché cioè sono argomenti di cui comunque ci si vergogna a parlare. Per esempio, una di queste dinamiche è la dinamica di genere della carestia, perché in situazioni in cui le famiglie devono decidere quale bambino salvare, per esempio, la cultura kazaka preferisce i figli maschi alle figlie femmine, quindi le bambine vengono mandate per esempio negli orfanotrofi, quindi c'è anche tutta una dinamica, pensiamo oggi, di genere che si interseca su altri fattori, ovviamente di disponibilità economica, di classe, di chi sono le persone che sopravvivono a questo tipo di carestia. E il problema è che parlare di questi argomenti è complicato, perché solleva ovviamente una serie di emozioni, e quindi anche banalmente non se ne parla, perché prima di tutto ormai cioè le persone che hanno vissuto questo fenomeno sono morte, ma anche le famiglie non cioè mantengono al loro interno, all'interno dei nuclei familiari, queste storie. Solo adesso stanno iniziando a venire fuori, ed è comunque un lavoro traumatico parlare di questi argomenti. Adesso vorrei un attimo affrontare quello che è, diciamo, più collegato al tuo lavoro di ricerca, che, lo ricordiamo, è studiare come sono cambiati, come cambiano i libri di testo in Kazakistan, e quindi comparare anche come vengono rappresentati certi eventi storici, e ovviamente la carestia è uno di questi, no? Un evento storico che in base ai vari anni viene descritto in un modo o nell'altro nei libri di testo. E quindi la domanda, in realtà le domande che ti volevo fare erano, innanzitutto, se pensi che ci sia una differenza nel quanto si parli di questo evento storico in Kazakistan oggi rispetto a, per esempio, quanto se ne parla in Ucraina, dove è diventato uno degli eventi recenti della storia recente, che, diciamo, fondante dell'identità nazionale moderna dell'Ucraina, no? Parte della storia dell'Ucraina moderna. E se il modo in cui il modo in cui se ne parla e quanto se ne parla in Kazakistan è cambiato dal 1991, l'anno dell'indipendenza del Kazakistan dall'Unione Sovietica, ai giorni nostri, e se hai un'interpretazione del perché oggi se ne parla in un modo diverso o se ne parla di più rispetto al passato. E ovviamente tutto ciò, appunto, legato anche al tuo studio dei libri di testo, come queste cose vengono raccontate nei libri di testo. Sì, il governo adesso sta iniziando a stabilire una serie di narrative su questo avvenimento, però se invece consideriamo le voci invece degli scrittori, degli attivisti, di persone appunto indipendenti, no, dalle commissioni governative, questa gente ha parlato della carestia per 35 anni, per cui è vero che c'è stato un incremento di come si parla di questo avvenimento, sicuramente dal 91 ad oggi, però un incremento su cui il governo è stato più lento della società civile, e in un certo senso il governo governo forse sta anche cercando di fare un controllo, no, del tipo di narrative che escono su questa storia, nel senso che il governo non aveva appunto una propria posizione fissa, no? Abbiamo visto che hanno cambiato modo di interpretare questo avvenimento storico, e adesso invece stanno cercando di un pochino capire cosa farne, pensarci una narrativa, anche perché appunto la società civile ne parla. In parte questo diciamo cambiamento di rotta, questa necessità è anche dovuta a una serie di cambiamenti che stanno succedendo fuori dal Kazakistan, per cui per esempio adesso ci sono una serie di movimenti di studio, ma anche politici, no? Che propongono una lente di interpretazione di avvenimenti storici dal punto di vista decoloniale, postcoloniale, e chiaramente questo è quello che sta succedendo anche in Kazakistan, però questi movimenti, diciamo, non nascono necessariamente qui, per cui c'è questo grande movimento adesso nella società civile, ma anche nell'Accademia Kazaka, di ripensare l'Unione Sovietica anche da questo punto di vista, no? come soggetto coloniale. Il governo comunque diciamo continua con una narrativa che cerca di evitare la politicizzazione di questo avvenimento diciamo presentarlo come un avvenimento tragico che è successo però senza che ci siano delle colpe specifiche da associare, per esempio, a delle etnicità precise. E questo è molto diverso da quello che sta succedendo in Ucraina, come ricordavi, perché in Ucraina si parla specificatamente di genocidio, c'è un diciamo un sottolineare il fatto che le persone che hanno sofferto di più, i gruppi etnici che hanno sofferto di più per la carestia in Ucraina sono persone di etnia ucraina, e c'è un consenso da parte sia dell'Accademia che della società civile che del governo su questa interpretazione, e questo non è invece vero in Kazakistan, dove ci sono interpretazioni differenti. Il governo appunto utilizza invece del termine genocidio il termine tragedia, diciamo, quello che è interessante dal punto di vista dei libri di storia che mi chiedevi è che i libri di storia kazaki non hanno un'interpretazione unica di questo avvenimento, quindi dipendendo dall'autore del libro di storia ci può essere un'attenzione più o meno grande su qual è stato appunto il ruolo attivo dell'Unione Sovietica nel causare la carestia. Il motivo per cui questo è interessante è che i libri di storia, perché non c'è una versione univoca, sono rimaste a essere uno dei pochi posti pubblici dove possiamo avere una discussione su cos'è accaduto. Ci sono, dei musei sono nati per ricordare appunto la carestia degli anni 30, però i libri di storia sono di fatto quasi l'unico spazio pubblico, cioè le classi di storia alle superiori sono l'unico spazio pubblico dove si può discutere di questo avvenimento. Non c'è appunto, come ricordavo, una versione unificata. A volte la versione kazaka o russa dello stesso testo, tra l'altro, può avere delle differenze linguistiche che vanno a sottolineare soprattutto qual è stata la composizione delle vittime, per cui all'interno dei libri russi in lingua russa si tende a sottolineare come tutto sommato ci siano state molte altre popolazioni che abitavano in Kazakistan all'epoca che hanno sofferto, tra cui i russi in primis, però anche gli uzbeki, gli uiguri, gli ucraini stessi, perché c'è una grande comunità in Kazakistan. E quindi questi libri di testo, le classi di storia alle superiori sono rimaste, o all'università, sono rimaste uno spazio di discussione, che è anche uno spazio utile per creare invece un dibattito su questo avvenimento storico che non lo porti a diventare un esercizio di ritualizzazione, che non ci porti a ricordarlo come per altri invece avvenimenti storici, come qualcosa che è successo e di cui dobbiamo ricordare il sacrificio dei nostri compatrioti. Un'altra domanda che ti vorrei fare è, dato che da quello che dici non c'è una linea, diciamo, di interpretazione di questo evento da parte del governo completamente chiara e netta, no? Diciamo che dici che ci sono varie interpretazioni e tutte queste qui hanno più o meno una certa agibilità. Pensi che questo abbia determinato una situazione più favorevole per la ricerca, per cui, quindi non essendoci, diciamo, un'interpretazione ufficiale governativa, c'è più libertà di esplorare le varie opzioni? E quindi ha avuto, diciamo, un ruolo positivo, o al contrario pensi che la mancanza di una direttrice chiara abbia invece limitato, insomma, avuto un effetto negativo sulla possibilità di fare ricerca in questo campo? Il governo kazako ha delle regole per lo studio di questo, cioè per questo tipo di ricerca. Questa ricerca, vabbè, essendo pagata con i soldi pubblici, deve essere, cioè, dimostrabile, no? Al pubblico, e deve seguire una serie di linee guida su come gestire l'argomento, che sono in particolare che non bisogna utilizzare questo studio per fare propaganda, quindi deve essere fatto lo studio in maniera oggettiva basandosi sulle fonti, però anche che non si può mettere in cattiva luce, cioè non bisogna creare dei danni alle famiglie dei comunisti, non bisogna metterle in cattiva luce, e questo comunque porta, cioè in parte ci lascia vedere, intravedere questa linea di interpretazione, per cui appunto ci sono. Cioè, queste persone sono viste prima come persone di etnia kazaka e poi come membri del partito comunista, come quadri del partito. Questa è sicuramente una dimensione, che ad oggi non è esplorata quanto dovrebbe essere, perché chiaramente i kazaki si sono trovati all'interno di questa storia ad essere sia dalla parte delle vittime, ma anche alcuni di loro dalla parte di chi ha perpetrato le decisioni. E quindi dovremmo cercare di capire, cioè dovremmo fare i conti, no? con questo passato, però chiaramente è una questione complicata, e è uno degli aspetti che non è studiato quanto dovrebbe essere, insieme ad altri aspetti della carestia che, per esempio, cioè di cui sappiamo qualcosa, si intravedono delle linee di interpretazione, ma che dovranno essere studiati molto di più, per esempio qual è stato l'impatto l'intersezione con il genere, perché le vittime donne sono state molto di più degli uomini, in parte per delle motivazioni culturali che hanno a che fare con la cultura nomadica, per cui famiglie con bambini, con più di un bambino, che devono scegliere a chi dare da mangiare, magari si trovano a dover prendere la decisione di nutrire i figli maschi invece che le figlie femmine, perché nella nostra cultura i figli maschi sono quelli che portano avanti il sangue della famiglia, e quindi è importante mantenere queste linee di famiglia. E questi sono tutti aspetti che appunto ad oggi non sono investigati abbastanza, e che però io immagino diventeranno delle grosse linee di ricerca in futuro. Prima hai menzionato che oltre al discorso del governo c'è anche una ricerca storica e una interpretazione di questi eventi da parte di gruppi che potremmo definire attivisti, no? Di discorsi non ufficiali. E, come sono cambiati e che differenze ci sono tra queste e quelle, diciamo, interpretazioni più ufficiali? Sì, e diciamo, l'attenzione della società civile, no, che si occupa di parlare di questo argomento si è concentrata soprattutto su due punti. Il primo è stato cercare di capire qual è stata la portata di questo avvenimento, per cui proprio quanti sono, cioè le quantità, i numeri di gente che è morta durante la carestia, e capire anche in che modo, cioè in quale modo sono stati distribuiti questi morti, quindi un lavoro che in parte cioè fanno al posto del governo, appunto, di cercare di documentare documentare queste storie. E poi il secondo punto è stato proprio focalizzare l'attenzione su le storie di sofferenza e di, cioè, di trauma però delle persone di etnia kazaka, quindi un recuperare diciamo l'importanza di questo evento storico per una parte della popolazione del Kazakistan mettere il concetto di etnia davanti a quello invece di, per esempio, di appartenenza al partito comunista. Ci sono delle, appunto, delle figure pubbliche che parlano di questo argomento, che proprio in maniera esplicita hanno preso posizione dicendo che non ha senso parlare dei leader comunisti kazaki che hanno fatto parte di questo avvenimento, perché queste persone ormai sono morte e non ha senso andare a riaprire vecchie ferite. E ricordiamo che comunque tanti membri del Partito Comunista Kazako comunque sono oggi celebrati in questo progetto di costruzione di un'identità nazionale, perché comunque il governo non ha un momento di stacco, non vede il passato sovietico come qualcosa da cui si deve distaccare, ma lo vede con continuità. Quindi c'è molto quest'idea che cioè il Kazakistan di oggi è erede di quella che è stata parte dell'Unione Sovietica, dobbiamo, diciamo, avere a che fare con questo passato, discutere con questo passato, però sempre tenendo conto che non c'è questo stacco. E quindi queste sono state due grandi aree di discussione da parte degli attivisti, per esempio. Sì, credo che quello che racconti è anche, diciamo, un testamento al fatto che comunque il Kazakistan è e rimane un paese profondamente multiculturale, multietnico, e quindi in un contesto in cui magari in un'altra parte del mondo avresti avuto o il governo o comunque dei gruppi di pressione, anche dei gruppi della società civile, che prendono questo evento e lo cercano di trasformare in una interpretazione di un conflitto tra l'etnia kazaka e quella russa, per, diciamo, costruire un nazionalismo, per costruire, diciamo, una base di potere su questa divisione, comunque sia il governo che diciamo quelli che tu chiami gli attivisti della memoria devono fare invece un discorso abbastanza, insomma, un tentativo di equilibrare il discorso, di includere nella memoria anche, appunto, queste diciamo tutte queste storie, e non viene comunque visto come un tentativo molto forte di non vederlo come una fonte di conflitto. E per cui, appunto, mi chiedevo se eri d'accordo con questa interpretazione, che questo sia comunque un segnale del fatto che il Kazakistan è storicamente e continua ad essere una società diciamo molto profondamente multietnica, in parte anche, diciamo, orgogliosa di esserlo, no? Anche molto che vuole mantenere questa sua specificità. Sì, questa è una maniera di interpretarlo, anche se da un certo punto di vista ci sono anche dei limiti, delle limitazioni, no? a questa narrativa del governo che appunto vede questo avvenimento come cioè, una tragedia che ha colpito tutti in maniera uguale. Prima di tutto perché non c'è modo veramente di sapere quanto di questa interpretazione non sia anche dovuta al fatto che comunque questa è l'interpretazione che viene data in Russia e in maniera obbligata il Kazakistan deve mantenere delle relazioni di tipo commerciale con la Russia. Abbiamo con loro un confine di quasi 7000 chilometri e quindi cioè, sono i nostri vicini, e questa è l'interpretazione da un certo punto di vista mutuata dall'Unione Sovietica. Non è chiaro quanto il governo kazako fosse non cosciente, o quanto abbia dovuto in parte anche adottare un po' questa interpretazione per dovere di buon vicinato. Ma sicuramente le cose, cioè, potrebbero cambiare, stanno già cambiando. Una domanda che, per esempio, io mi sono posto varie volte, era anche appunto per capire, cioè, il governo kazako adesso ha un'interpretazione di questi fatti, o comunque ha una discussione attorno a questi avvenimenti, ma in parte per reazione, perché comunque il discorso è diventato così comune nella società civile, è diventato più discusso, e quindi il governo ha, diciamo, cercato di inserirsi, no, in queste narrative. Però abbiamo visto che i libri di testo, per esempio, non hanno una versione unificata, e un po' la domanda che ci potremmo fare anche perché questo tipo di ricerca, per esempio, non è mai stato finanziato fino ad oggi. E uno potrebbe dire, ok, all'inizio degli anni del 1990, subito dopo l'indipendenza, c'erano cose da fare molto più importanti che finanziare studi sulla memoria, cioè sicuramente ci sono stati dei limiti economici, però negli anni 2000, all'inizio degli anni 2000, il Kazakistan ha un boom economico dovuto a una serie di cambi nei contratti per l'esportazione di petrolio, e questi extra, cioè soldi extra che sono arrivati al paese, non sono poi stati investiti nel cercare, per esempio, di finanziare questo tipo di studi, per cui non è chiaro fino a che punto appunto il governo kazako poi volesse veramente occuparsi di questa della percezione di questo evento storico. Sicuramente le cose stanno cambiando dal punto di vista invece della composizione etnica, perché ed è questo forse anche uno dei motivi per cui si sta parlando molto di più di questo argomento, perché con la carestia comunque ci sono state dei fenomeni di diaspora molto importanti, di gente che si è trasferita in Russia, in Cina, in Mongolia, eccetera, e adesso le seconde generazioni, terze generazioni di questa gente stanno tornando, quindi stanno tornando in patria persone che hanno una forte, diciamo, anche identità collegata al fatto che la loro famiglia ha subito la carestia, sono state vittime della carestia. L'etnia kazaka prima non era maggioritaria nel paese, però adesso invece lo sta diventando, sono il 70% della composizione etnica del paese, e quindi sì, il governo cerca di mantenere, no, questa visione della multiculturalità, però al tempo stesso sta anche, diciamo, incoraggiando, per esempio, l'uso della lingua e incoraggiando il rientro della diaspora, per cui non è ancora così chiaro. E con questo concludiamo la nostra intervista con Berik Dukayev. Questa era l'ultima puntata di L'Orda d'Oro. Ci potete ascoltare su Radio Onda Rossa ogni due mercoledì del mese sugli 87.9 FM e anche in streaming sul sito della radio. E con questo salutiamo tutti gli ascoltatori e ascoltatrici della radio, e in particolare quelli che ci stanno ascoltando privati della loro libertà. Io sono Belka. Io sono Strelka. E ci rivediamo tra due settimane. Ciao. Would those who are interested, yeah, will learn a little bit more about sure. Yeah. You can tell them bye if you want. You can say ciao Radio Onda Rossa. How's that? Ciao. Ciao. Radio Onda Rossa. Ciao Radio Onda Rossa. Thank you. Catch a space flight, I'm so fly when the time is right. Catch a space flight. Ciao Radio Onda Rossa.